c'erano le oro, non c'erano tribune, non c'erano le guerre, non c'erano eroi, non c'era la tortura, non c'erano gli schiavi.